B. Ora le frasi 1 e 2 sono lette in ordine sparso. Indica l'intonazione secondo la sequenza. 1. Guarda il cielo. Guarda il cielo. Guarda il cielo. Guarda il cielo. Guarda il cielo. Guarda il cielo. 2. Fermate il traffico. Fermate il traffico. Fermate il traffico. Fermate il traffico. Fermate il traffico. Fermate il traffico.